Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come faccio sempre, vi ricordo alcune informazioni. Allora, la prima è il nostro sito radio24.it. Potrete scaricare in tempo pressoché reale tutte le puntate o ascoltarle con calma, soprattutto quelle che, come la mia, hanno un orario abbastanza presto. Potete anche abbonarvi, insomma, vi consiglio di visitare radio24.it. Sotto il profilo dei giornalisti e conduttori troverete il mio profilo, appunto, e lì raggiungerete il mio blog Guardie o Ladri. Lo conoscete, potete raggiungerlo anche dall'home page del Sole 24 Ore o attraverso un qualunque motore di ricerca. Ultima informazione è quella che riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, oramai siamo in tempo di festività pasquali, molte persone si recheranno in vacanza, avranno qualche giorno di riposo, motivo per il quale abbiamo deciso di parlare di questo in un modo un po' diverso, vale a dire attraverso una sentenza di un giudice di pace che ha imposto a un'agenzia di viaggi il rimborso della vacanza di una persona, di una coppia di persone. Perché? Perché l'appartamento in cui poi sono andati ad alloggiare non corrispondeva a quanto aveva promesso il tour operator. Allora, sarà capitato probabilmente a decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone di essere andati in un posto pubblicizzato da un tour operator e poi non si è trovato quello che ci si aspettava di trovare. Molto bravi sono i tour operator a fare il loro mestiere, qualche volta lo fanno anche con aiuti di, diciamo così, di foto, comunque di promesse che poi non si riescono sempre a mantenere. Allora, per parlarne noi abbiamo chiamato una di queste persone che non è rimasta poi molto soddisfatto, lo chiameremo semplicemente Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti i telespettatori. A tutti i radioascoltatori. Sì, radioascoltatori. E buongiorno a Marco Festelli, che è responsabile di Conf Consumatori Toscana. Buongiorno Festelli. Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Perfetto, così non ci sbagliamo. Allora, Stefano, può raccontarci qual è stata innanzitutto la vostra vicenda e poi che cosa ha deciso il giudice di pace di Pontassieve? Dunque, la storia è breve. Comunque era una vacanza ed era partita a tutti i buoni propositi, per una vacanza tranquilla e rilassante, poi invece si è dimostrata in questa maniera. Il 18 di agosto del 2007 siamo andati a fare questa vacanza, eravamo due coppie in Sardegna, la zona era Costa Paradiso, che era fra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura. E niente, appena arrivati a questa villetta, che doveva essere una villetta insomma di tanto di cappello, ci siamo subito accorti che all'interno c'era un grande puzzo di fogna e abbiamo fatto subito presente: ma come mai questo puzzo? Dice: no, ma è normale, insomma, le delle pulizie hanno detto non c'è problemi, tenete un po' aperto, è una cosa che va e viene. Comunque questa puzzo di fogna non è mai andata via. Poi ci siamo accorti, oltre al puzzo di fogna, mancava il piatto doccia, le pareti del bagno, le piastrelle erano sporche, le cazze di umido addirittura in camera, la biancheria dei materassi era macchiata, il giardino, ci hanno detto doveva essere un barbecue, praticamente era inesistente perché era un giardino scosceso e il barbecue era inesistente. E poi la piscina si doveva trovare, da come dal deplano avevamo visto, doveva essere adiacente alla casa, la piscina, per poterci arrivare dovevamo fare un giro veramente tortuoso di 10 minuti di cammino, sicché niente di quello lì che c'era stato. Insomma, è come praticamente sperare di sposare Carla Bruni o Carla Bruni e poi uno si trova invece fidanzato con tutt'altra storia, insomma, no? Precisamente. Ecco, allora, questo è il racconto e credo che sia comune a chissà quante famiglie e chissà quante coppie. Allora, Consumatori Firenze ha accompagnato nel suo percorso legale questa coppia, abbiamo sentito appunto Stefano, ed è riuscita a fargli ottenere un rimborso che complessivamente è un rimborso di 700 euro, magari non così così importante, magari non c'è stato nemmeno il ristoro totale dei danni, diciamo così, subiti, se per danni intendiamo quelli di aver trovato un ambiente totalmente diverso da quello auspicato. La sentenza è scaricabile dal sito di confconsumatori.com, ma intanto io vorrei approfondire con l'avvocato Marco Festelli, appunto responsabile di Confconsumatori Toscana, questo tipo di sentenza. Il periodo è appunto pasquale, come dicevamo prima, Festelli. Certo. Lei crede che ce ne saranno tante di queste storie, oppure, come dire, l'attenzione anche sale sia in chi acquista un pacchetto vacanze che in chi poi invece vende, proprio quindi nelle agenzie, nei tour operator, il pacchetto vacanze stesso. A lei le valutazioni, Festelli. Il problema è che il contratto di viaggio turistico ha una finalità ben precisa, cioè quello di rilassarsi, quello di svagarsi. La pubblicità che le agenzie e i tour operator approntano sui loro prodotti e sui loro cataloghi deve essere fedele a ciò che poi si trova sul posto. Se un bene, in questo caso un servizio, viene reclamizzato con una certa qualità, non può essere di qualità sensibilmente inferiore, altrimenti è evidente che il prezzo, come ha deciso il giudice di pace di Pontassieve, deve essere ridotto proporzionalmente alla qualità del servizio che è stato poi in realtà erogato. Certamente. Si parla di piscina vicino, di vacanza principesca, di villaggio turistico all'avanguardia, pulito, eccetera, non si può poi trovare sul posto, non dico una stamberga, ma comunque una casetta di normale diciamo qualità, perché evidentemente quel contratto di viaggio ha un costo che è parametrato alle qualità pubblicizzate. Certo. Ecco, io però vorrei chiedere questo, avvocato Festelli: quanto è difficile far valere i propri diritti? Cioè, io sono rimasto colpito da una parte della storia di Stefano, no? Quando diceva: quando siamo arrivati ci siamo resi conto che c'era un odore insopportabile di fogna. Allora, per quanto mi riguarda, già quello, un odore persistente di fogna, è intollerabile e insopportabile, cioè vale il rifare le valigie e tornarsene a casa. Ma poi come si fa a dimostrare che lì effettivamente c'è una puzza insopportabile? Il problema è che, come tutti i viaggiatori, quando uno arriva sul posto, se ovviamente avendo già pagato, avendo già programmato, esatto, le ferie, è difficile che poi veda tutto nero, proprio ritenga impossibile proseguire. Magari prosegue con poca felicità, comunque godendosi una settimana senza lavorare, però quel periodo che doveva essere in una bella casetta in realtà non è stato passato in una bella casetta. La cosa più importante è far tenere a mente che le cadenze di qualità devono essere possibilmente contestate sul posto anche via telefono, e nel corso della vacanza devono essere documentate attraverso testimonianze, attraverso fotografie o in qualunque altro modo, ma poi bene altresì, questo è un termine di decadenza, entro 7 giorni dalla fine del viaggio spedire una raccomandata di contestazione all'agenzia e o al tour operator. Ecco, questo è molto molto molto importante. Allora, cercando di riepilogare, in buona sostanza bisogna cercare di immortalare qualunque aspetto che sia difforme rispetto a quello che è stato promesso nella brochure o dal tour operator, in maniera tale che poi, ritornati a casa, entro 7 giorni al massimo si possa anche contestare formalmente con raccomandata con ricevuta di ritorno. Foto, testimonianze e quant'altro aiutano ovviamente poi eventualmente a ottenere il rimborso di quanto si lamenta. Io credo che da questo punto di vista anche il vostro sito tornerà utile, no, avvocato Festelli? Sì, certo, sia confconsumatori.com o.it, che tanto sono sempre il solito, oppure faccio un po' di pubblicità alla mia associazione a livello toscano, anche il consumatoritoscana.it è ben fornito di queste, assolutamente, queste notizie e di queste esperienze. No, ma non si tratta di pubblicità, fa bene, noi chiamiamo sempre le associazioni dei consumatori a rotazione a interloquire con noi, proprio perché sono come altre parti che chiamiamo a parlare e dialogare con noi, sono appunto le controparti che devono essere sempre presenti quando si affrontano i casi. Allora, io ringrazio Marco Festelli, avvocato di Consumatori Toscana, il nostro radioascoltatore Stefano. Auguro a lui e a tutti buone vacanze. Siamo in tempo appunto di, diciamo così, di scambi augurali pasquali. Grazie in regia Pietro Lacorte, in studio ad Elisabetta Fusconi, e nel ringraziare i miei ospiti e i miei radioascoltatori auguro a tutti una buona giornata.